have a dream today. Yes, we can. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can. Razzismo e schiavitù, ora davvero non se ne può più. Intolleranze di colore portano solo dolore. Cultura, religione ed etnia, condanniamola questa xenofobia. Da Malcolm X a Martin Luther King arriva poi Obama, nuovo presidente di quell'America assai lontana, che lancia le sue bombe di qua e di là, accentuando il suo odio verso alcune civiltà. Black man in White House, black man in White House, black man in White House, the change is gonna come. Black man in White House, black man in White House, black man in White House, the change is gonna come. Primo presidente nero che decide le sorti del mondo, sarà fumo negli occhi o cambiamento profondo. Una cosa è certa, qualcosa sta cambiando, me ne sono accorto mentre Obama stava ascoltando. Promessa di ritiro da Iraq e chiusura di Guantanamo, son segni importanti. Siamo, vivimo con la speranza che lo cambiamento è arrivato, non sul culo di pelle ma serietà più tu stato. Black man in White House, black man in White House, black man in White House, the change is gonna come. Black man in White House, black man in White House, black man in White House, the change is gonna come. Secondo me che la situazione cambia ormai. Già dopo che mi faccio sta domanda, potrebbe essere questa la volta decisiva, potrebbe essere la svolta definitiva. Se in America da sempre vige l'ipocrisia, ma già non è abbastanza perché perda la speranza. Mi chiedo solo cosa c'è la democrazia. Il governo del popolo è una massa di arroganza. C'è perché dare così importanza al voto? Se dopo puoi cambiare così poco. No, è la gente che deve aver paura. I popoli, il governo dovrebbe temere la furia. Black man in White House, black man in White House, black man in White House, the change is gonna come. Black man in White House, black man in White House, black man in White House, the change is gonna come. Black man in the White House, bomb them TV in the house. Why not like a little mouse? Me scream like also Jesus Christ. Zero differenze, colore, religione, solo nel potere l'unica distinzione. Che oramai si è nero, certo forse cambiamento, ma questo è poco, io resto attento. Voglio vedere prima mantenute le promesse, per me non è altro che un voto ed un nome. Se cambia personaggio ma le storie sono le stesse, ricordati che la memoria del suo fuggileone. Black man in White House, black man in White House, black man in White House, the change is gonna come. Black man in White House, black man in White House, black man in White House, the change is gonna come. Black man in the White House, bomb and TV in the house. Why not like a little mouse? Me scream like also Jesus Christ.